Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, sì, parleremo anche della Brexit, della Gran Bretagna. Devo subito contraddire un ascoltatore perché ogni tanto c'è molta confusione sotto il cielo. La sterlina vola, mi scrive, è alla faccia dei gufi di casa nostra. No, guardi, lei la può pensare come vuole, immagino, cioè, mi sembra di capire che lei sia molto contento della Brexit, però la sterlina vola, o meglio si rafforza, perché quello che è capitato in Gran Bretagna allontana o rischia di allontanare l'uscita vera e propria della Gran Bretagna dall'Unione Europea. È su questa speculazione che vola, per cui insomma, alla faccia dei gufi o delle colombe o dei galli, ma il principio è esattamente l'opposto, lo dico con la massima col massimo rispetto, di quello che lei segnala, e ossia cosa è successo. L'alta corte di Londra, come ha già i nostri GR24 vi hanno raccontato, ha accolto il ricorso di un gruppo di attivisti pro Unione Europea, quindi contro la Brexit, che hanno chiesto un voto del Parlamento per avviare l'iter della Brexit. Questo complica di molto le cose e c'è l'ipotesi che l'uscita, per come l'abbiamo conosciuta, della Gran Bretagna dall'Unione Europea non sia quella fino adesso descritta. Il giudice ha dato torto al governo di Theresa May, quindi quello che sta gestendo, dovrebbe gestire per l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, perché Theresa May ha sempre rivendicato il pieno diritto di invocare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona e avviare tutte le procedure per uscire dall'Unione Europea. A questo punto si attende un appello del governo britannico contro la decisione dell'Alta Corte di Londra, che può rivolgersi il governo britannico direttamente alla Corte Suprema, che è composta da 11 giudici. Il caso verrà dibattuto il 7 e l'8 dicembre. Perché l'Alta Corte di Londra ha dato ragione ai parlamentari pro Unione Europea? Perché dice che il principio fondamentale della Costituzione del Regno Unito è che il Parlamento è sovrano, e questo rappresenta, lo sottolineano i media britannici in questo momento, una grossa umiliazione sia per il governo di Theresa May, ma anche sulla Brexit, di fatto rallentandola. Allora, e questo è un tema e di cui parleremo, anche perché la sterlina, per carità, ha recuperato, era ai minimi dal 2003, ma insomma ha fatto più 1% sul dollaro e più 1,3% sull'euro. Siamo in questo momento a 0,89 pence sull'euro per quello che riguarda la sterlina. Non ci occuperemo solo di Brexit, anzi avremo anche un secondo capitolo della puntata, o del tema popolare di Bari, ieri affrontato. Abbiamo specificato che i parallelismi sono sempre impropri sia con Veneto Banca che con Popolare di Vicenza, però è ovvio che quando riceviamo delle segnalazioni di ascoltatori che non riescono a vendere, a trovare un compratore per le loro azioni di una banca non quotata che si sta trasformando in SPA, l'attenzione in questo periodo è massima, e avremo ospite, giustamente, perché si sente anche la controparte, la controparte rispetto agli ascoltatori, chiaramente, il direttore generale della Popolare di Bari, per capire quale sia lo stato di salute, e anche in previsione del prossimo 11 dicembre, quando l'assemblea degli azionisti dovrà votare la trasformazione in SPA. Allora, ancora per quello che riguarda gli altri temi di questa puntata, oltre a Pop di Bari e chiaramente alla vicenda che riguarda la Brexit, ci occuperemo dei dati di casa nostra, dove, già lo sapete, il dato di oggi sulla disoccupazione non è un buon dato come dato complessivo. La disoccupazione a settembre sale all'11,7%, quindi torna a salire, più 0,2 su agosto, torna ai livelli di febbraio del 2016. Sale anche l'occupazione. E uno può dire: adesso state delirando. No, la disoccupazione misura il numero di persone che non lavorano tra quelle che vogliono lavorare. L'occupazione misura il numero di persone che lavorano, fatto 100, chi potrebbe lavorare. Dov'è la differenza? Alcuni, o perché non hanno interesse, o perché sono sfiduciati, tipicamente, ahimè, abbiamo le donne e i giovani, va a colpire molto donne e giovani questa tipologia, non cercano nemmeno il lavoro e quindi per l'Istat non sono nemmeno disoccupati. Banalmente, se tu non lavori, non lo cerchi, stai a casa o fai la casalinga o sei uno studente o un giovane cosiddetto NEET che non lavora e non studia, non rientri nella disoccupazione, però sei un non occupato, quindi i due dati sono diversi, tant'è che spesso si dice che può salire l'occupazione e salire anche la disoccupazione. Perché? Perché ci può essere un numero maggiore di persone che cerca il lavoro e quindi un numero maggiore di persone anche che lo trova, ma se è più alto il numero di quelli che lo cerca rispetto a quello che lo trova, tu hai un aumento dell'occupazione ma anche un aumento della disoccupazione. Ne parleremo. Il governo rivendica 656.000 posti di lavoro in più, di cui il 75% a tempo indeterminato. Io banalmente continuo a fare l'appello che facciamo da un anno e mezzo almeno, quasi due anni, forse già due anni, e che cos'è? Per favore, troviamo un unico appuntamento sui dati di occupazione e disoccupazione. Non si riesce a spiegare nulla e poi, non lo dico, è anche controproducente per il governo, perché poi sembra che tiri l'acqua solo da una parte. Non è possibile commentare ogni mese prima i dati Istat, poi i dati INPS e poi i dati del Ministero del Lavoro, e ogni volta con raffronti diversi, per cui ormai ne sono certo, la percezione di chi ascolta, di chi legge, di chi guarda è sostanzialmente: qua ognuno tira l'acqua al suo mulino, gira e rigira i dati come vuole. È obiettivamente un effetto boomerang, potrà servire al governo per cantare vittoria una rilevazione, ma poi nel medio termine annulla ogni credibilità su questi dati, perché non si riescono a confrontare ed è difficile anche per noi. Comunque, di questo anche parleremo anche del rapporto sugli scenari industriali del Centro Studi di Confindustria. 349-238-6666 è per il numero per gli SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora mi ricordate che non ho detto la borsa, avete ragione: meno 0,2% Milano, più 0,1% Parigi, meno 0,30% Francoforte, meno 0,50% oggi Londra, Benelux Ottica più 3,20%, Intesa più 1,90%, Azimut più 1,70%, Unipol più 1,1%, Poste Italiane più 1%, più calma oggi la borsa: Exor meno 2,50%, Ubibanca pure, Brembo meno 2,30%, Snam meno 1,60%, CNH meno 1,5% come Mediaset, Campari meno 1,40% come Popolare Emilia Romagna. Allora, il petrolio ce ne siamo occupati anche ieri, oggi torna e sta ampiamente sotto i 45 dollari al barile, perde un altro punto percentuale. Sul fronte dell'economia internazionale, la banca centrale egiziana ha svalutato la lira egiziana del 48%, è la seconda volta quest'anno, quello per arginare il rischio di una crisi economica. Praticamente un dollaro sarà cambiato ufficialmente a 13 lire, anche se quello non ufficiale, quello del mercato nero, già viaggiava a 16 lire egiziane. Allora, sul fronte Banca Centrale Europea e dialogo, dialettica con la Bundesbank, segnalo che oggi il numero uno della Bundesbank, nonché consigliere della BCE, Hans Weidmann, ha detto che è fondamentale che la Banca Centrale non allunghi il tempo del QE, del quantitative easing, per motivi di bilancio o delle finanze pubbliche dei vari paesi, ma solo guardando gli sviluppi dell'inflazione. È un avvertimento a Draghi, come dire, non usare altri elementi se vuoi allungare oltre il marzo 2017 lo stampaggio di euro, però. E si muovono sempre in coppia Weidmann e Schäuble, il ministro tedesco delle finanze, il quale aggiunge: la politica monetaria ha raggiunto i limiti massimi delle sue possibilità. Ho capito, però deve deciderlo Draghi e il board della BCE, non il ministro delle finanze di un paese di cui la Banca Centrale Europea vigila le banche, le principali banche, anche se questo paese si chiama Germania. E poi Schäuble dice di non essere preoccupato per Deutsche Bank, beato lui, siamo tutti contenti, bene così. Mi chiedete quanto è lo spread oggi, giusto? 153, quindi non ai 160 di ieri, ma 153 punti, sempre altino rispetto ai mesi passati e sempre più alto di quello spagnolo. Andiamo avanti, mentre poco fa abbiamo visto che il governo britannico ha dato via libera, torno alla notizia con cui abbiamo aperto, per presentare un appello alla Corte Suprema contro il verdetto dell'Alta Corte di Londra. Cioè qui si sta rischiando un ingorgo istituzionale in Gran Bretagna mai visto prima. Va bene, va bene. Chi è al settimo cielo per la vittoria è Gina Miller. Chi è? È donna d'affari attivista che ha organizzato la campagna per sfidare in tribunale il governo di Theresa May. Domani vi sarà una telefonata tra il Presidente della Commissione Europea Juncker e Theresa May. Certo che tutto questo obiettivamente va a indebolire le capacità contrattuali della May. Devo dire che mi dispiace? No, non mi dispiace. Penso che sia stato un errore totale dei britannici e anche preso sotto gamba con dati falsi, come poi lo stesso Farage ha ammesso. Ma chi se ne frega, hanno già votato, quello hanno votato. Adesso vedranno cosa vuol dire trattare con l'Unione Europea da una posizione di debolezza, perché se il paese è spaccato, non dico in due, ma è spaccato, è chiaro che ti poni a livello di trattativa in maniera più debole. Comunque, agli sviluppi sul fronte della Brexit sono dedicati i 100 secondi di Radio 24. Oggi, a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula, ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Colpo di scena su Brexit, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. I giudici dell'Alta Corte di Londra hanno accolto l'istanza presentata da due cittadini sulle modalità per il distacco di Londra da Bruxelles. La posizione dei giudici britannici è molto chiara: per divorziare dalla UE al governo non basta il referendum, ma è indispensabile che sia il Parlamento a pronunciarsi approvando una legge. È una sentenza che ovviamente segna un punto a favore di quanti a Londra continuano a pensare che Brexit non sia un buon affare per la Gran Bretagna, e forse non è un caso che dopo questa notizia la sterlina abbia recuperato un po' di terreno rispetto ai minimi dei giorni scorsi. È una sentenza sorprendente perché contro questa tesi si era espressa la Premier Theresa May, secondo la quale il voto del referendum del 23 giugno e i poteri del governo erano più che sufficienti per avviare i negoziati con la UE sul divorzio britannico. Ora il governo farà ricorso in appello alla Suprema Corte. Quel che possiamo dire è che se il verdetto di oggi verrà confermato si apriranno nuovi scenari. Come sappiamo, la maggioranza dei deputati di Londra è favorevole alla permanenza nella UE. Di certo per chi siede in Parlamento però non sarà facile ignorare il voto del referendum. Probabilmente torneranno in discussione sia i tempi, sia le modalità, sia l'intensità con cui avverrà il distacco della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo adesso sul tema dell'occupazione e disoccupazione. Vedo molti ascoltatori sulla Brexit, ma poi ne parliamo, che dicono: cosa vuol dire quindi il popolo sovrano non ha valore? Guardate che è la Corte, non è mica sottoscritto, è l'Alta Corte di Giustizia di Londra che ha detto, infatti andranno allo scontro poi alla Corte Costituzionale, ha detto il Parlamento deve legiferare sulla Brexit, non può farlo solo il governo. Può sembrare una cosa da diritto costituzionale e quant'altro, ma non è così, e il mercato si muove su una ulteriore lentezza nell'avviare la Brexit. E tra l'altro faccio notare che la stragrande maggioranza dei deputati alla Camera dei Comuni britannica ha votato Remain al referendum del 23 giugno, quindi restare. 480 a favore a fronte di 159 contro. Questo perché si iniziano a fare i conti, le proiezioni su come potrebbe votare il Parlamento. Ma non è che il Parlamento sia il Parlamento di uno Stato straniero, dopodiché ha deciso così la Corte di Giustizia di Londra. E non è che le cose vanno bene quando uno è a favore della Brexit, vanno male se c'è una parte del paese che dice di restare. Io capisco l'odio nei confronti dell'Unione Europea, però insomma. Ma occupiamoci dei casi nostri e ne abbiamo, nel senso che il dato sulla disoccupazione diffuso oggi è un dato che uno può girare in tutti i modi, ma alla fin fine il tasso di disoccupazione a settembre è salito all'11,7%, è tornato ai livelli di febbraio. Sale anche l'occupazione, 45.000 occupati in più, ho già spiegato che le due cose non sono in contraddizione, se più persone cercano lavoro e non lo trovano aumenta la disoccupazione, allo stesso tempo se una quota di queste persone che lo cercano lo trova aumenta anche l'occupazione, non sono la stessa cosa. Perché appunto gli occupati sono quelli che lavorano fatto 100, tutti quelli che potrebbero lavorare, i disoccupati sono solo quelli che cercano lavoro e non lo trovano. Mi scrive un ascoltatore: allora mio figlio, io parlavo anche dei figli, che non fa niente e non cerca, di che categoria fa parte? Se non cerca lavoro e non ha un lavoro e non studia, non rientra tra i disoccupati. Lei scrive dei disgraziati, non vado su questi giudizi, ma non rientra sui disoccupati, rientra tra i non occupati. Professor Della Ringa, buonasera. Buonasera. Ex sottosegretario del lavoro, deputato del PD, le riconosco sempre onestà intellettuale, non cervello all'ammasso. Allora, come, perché io vedo anche il presidente del Consiglio Renzi che dice 656.000 imposti in più grazie al Job Act da febbraio 2014, però vede che, professore, lo dico con massimo rispetto, se continuiamo a dilatare o a restringere come una fisarmonica sti dati, che quando fa comodo li prendiamo da febbraio 2014, quando fa comodo li prendiamo dal mese prima, cioè è vero che tutto si può, che i numeri possono essere confrontati in maniera diversa, ma diamo la sensazione di voler sempre dare una mano di bianco, come si dice dalle mie parti, ai numeri. Allora, il suo primo giudizio su dati della disoccupazione e dell'occupazione. Sì, appunto, senza toni trionfalistici, perché poi i dati in una certa misura parlano anche da soli. Cosa sta succedendo? Che al di là di variazioni mensili che sappiamo talvolta sono dovute al modo con cui i dati vengono raccolti, quindi ballano un po' da un mese all'altro, però se guardiamo a questo mese, ma anche i mesi precedenti, noi osserviamo che grosso modo l'occupazione ormai ha raggiunto una sua stabilità. Questo mese è aumentata e il mese scorso è diminuita. Però è vero anche che rispetto a quando non c'era il Jobs Act, soprattutto quando non c'era la decontribuzione più di un anno e mezzo fa, il nostro mercato del lavoro, l'occupazione ha fatto un bel gradino verso l'alto. Adesso si sta assestando per vari motivi. La decontribuzione è diminuita, quindi un vantaggio per l'impresa è ridotto. E poi sappiamo che insomma la ripresa economica è lontano dall'essere ancora soddisfacente. Io ritengo che già riuscire a mantenere quel gradino in più, sarà di 500.000, 400.000, 600.000, perché ricordiamoci che poi abbiamo le fonti statistiche, Istat, Ministero del Lavoro, che danno numeri diversi, speriamo che fra poco si mettano d'accordo per darci tutti gli stessi numeri, però insomma in ogni caso, anche con queste differenze, un bel gradino è stato fatto, quindi sarà stata la decontribuzione più del Jobs Act, è difficile dirlo. Adesso l'importante è perlomeno mantenere questo gradino ed evitare che se la ripresa tarda a venire e soprattutto la decontribuzione l'anno prossimo non ci sarà più, sarebbe già abbastanza mantenere questo gradino. Mi scusi, però questo gradino c'è. Allora, il gradino c'è e voglio dire, ed è un gradino che è anche costato, nel senso che l'anno scorso aver dato 8.000 fino a un massimo di 8.000 euro per ogni neoassunto per i prossimi tre anni, 8.000 euro all'anno di decontribuzione, quest'anno la metà, 4.000, è costato, e quindi ben vengono anche i dati sull'occupazione. Io li leggo più alla decontribuzione che al Jobs Act, abbiate pazienza, però insomma, probabilmente così. Comunque, anche perché appunto Jobs Act c'è ancora, ma non c'è, ma è la decontribuzione che si è ridotta. Però il rallentamento è oggettivo. Non sarebbe meglio dire quello che si poteva fare come, diciamo, iniziativa dello Stato, del governo, è stato fatto, cioè la decontribuzione l'anno scorso e in parte quest'anno, un mercato del lavoro più flessibile. Detto questo, se l'economia non riparte o non cresce a ritmi veramente più alti, è finito l'effetto della legge della decontribuzione. Voglio dire, della Ringa, gli imprenditori che hanno aspettato ad assumere o a trasformare a tempo indeterminato o ad assumere il collaboratore, lo hanno già fatto l'anno scorso. Qualcuno può anche approfittarne quest'anno, perché 4.000 euro sono meglio che niente, ma insomma il grosso dell'iniziativa della manovra finanziaria si è esaurito. Perché non riconoscerlo? No, è così. Bisogna dire che c'è stato un effetto, sarà un 500.000 di posti di lavoro soprattutto stabili, che forse è andato oltre le rose previsioni, ma non si può pensare che questo effetto positivo ce lo possiamo trascinare in avanti per tanto tempo se nel frattempo non c'è la ripresa economica. Quindi questo va assolutamente riconosciuto, anche perché l'anno prossimo io non è che sia ottimista se la ripresa tarda a venire, cioè quel gradino che abbiamo fatto ce lo mangiamo parzialmente se non c'è la ripresa economica. Quindi per mantenerlo occorre riprese. Quindi è già abbastanza positivo che l'occupazione si stia stabilizzando, perché da come va l'attività economica uno potrebbe pensare che dobbiamo aspettarci delle riduzioni, cioè ci mangiamo un pochettino l'eredità che ci siamo costruiti con tanta fatica e anche con delle risorse ingenti. E dirò di più, che c'è un segnale che ci fa preoccupare, cioè l'aumento della disoccupazione, che è dovuta soprattutto a coloro che prima erano inattivi, cioè non cercavano per motivi loro, non erano nel mercato del lavoro, adesso si danno da fare. E sono tutte persone nell'età centrale, cioè quelle nel pieno delle loro forze vitali. E perché cercano? È perché i redditi si stanno riducendo, le famiglie sono in affanno e quindi si buttano nel mercato del lavoro per cercare occasioni. Quindi questo è diciamo così positivo se c'è più gente che vuole lavorare, ma è anche indicativo di una situazione di sofferenza da parte delle famiglie. Allora, il dato a settembre: 45.000 occupati in più e 60.000 disoccupati in più. Uno dice: ma che cavolo è successo? Si spiega perché ci sono meno inattivi, cioè meno persone stanno a casa senza cercare lavoro, e quindi sono 130.000 in meno, quindi 130.000 persone che si sono affacciate sul mercato del lavoro, di cui 60.000 non l'hanno trovato e sono entrate nella categoria di disoccupati, 45.000 l'hanno trovato e hanno aumentato il numero complessivo di occupati. Spero che sia chiaro. Certo che, diciamo, l'Istat, il modo di conteggiare questi dati, professor Della Ringa, non è che ci aiuti, a noi che dobbiamo tradurre queste cose. Più arrivano tre dati al mese, ognuno tira acqua al suo mulino, non ne posso veramente più di commentare i dati, che ci metto 10 minuti a spiegare la differenza tra disoccupati e occupati e perché possono salire gli occupati, ma salire anche i disoccupati, perché calano gli inattivi. Professor Della Ringa, sì, cioè, se vogliamo anche spiegarci, ballano un mese all'altro, poi giustamente quello scrive: ecco, tirate la corda al governo Renzi, quell'altro dice. Anche la chiarezza nella comunicazione aiuterebbe a essere più credibili. Comunque ne parliamo tra un minuto, perché invece vorrei il suo commento anche sulle qualità e le tipologie di lavori e di lavoratori neo occupati, perché non basta dire che sei occupato, bisogna capire anche con che contratto. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti. Allora, vedo moltissimi messaggi su WhatsApp, SMS, sui dati dell'occupazione e della disoccupazione al 349-238-6666. Professor Della Ringa, per concludere, insomma, lei ha detto molto chiaramente che già è buono che resti, sia rimasta allo stesso livello l'occupazione, perché lei teme che se l'economia dovesse crescere a questi ritmi bassi, l'anno prossimo dovremo commentare anche un peggioramento di questi dati. Ho capito bene, Della Ringa? Esattamente così. Allora, esattamente così. Alcune domande che ci fanno gli ascoltatori. Ma come fa l'Istat a sapere se io non me ne sto a casa a fare nulla e invece vado in giro a cercare lavoro? Perché non ti iscrivi alla lista di disoccupazione, giusto? Lista di collocamento. Sì. Uno deve fare delle azioni, al momento che sono interviste, gli si chiede se stanno facendo delle azioni di ricerca attiva. Può essere andare all'ufficio di collocamento, può essere andare a fare delle domande presso le imprese, fare delle inserzioni, chiedere in giro se c'è posto, insomma darsi da fare. Se uno non si dà da fare, viene considerato inattivo. Poi molti mi chiedono del lavoro nero, e allora noi il nero, no, però perché nero non riusciamo a considerarlo nella statistica ufficiale. C'è un'obiezione un po' diversa, professor Della Ringa, e dicono: ma non è che in questi anni di crisi sia aumentato anche la quota di lavoro nero, vista le difficoltà di imprese e anche la maggiore disponibilità delle famiglie? Può darsi, anche se gli ultimi dati, che non sono questi, perché questi dati mensili non raccolgono informazioni di questo tipo, però i dati di contabilità nazionale, che è sempre l'Istat, fa una stima di lavoro nero, è leggermente aumentato, ma non in modo così consistente, perché vede, le difficoltà dell'economia talvolta sono anche le difficoltà del lavoro nero. Beh. E anche perché le imprese hanno avuto grosse facilitazioni fiscali per assumere, quindi questo è in controtendenza rispetto alla loro. E poi hanno i voucher, che fra l'altro sono degli strumenti che ormai usano abbondantemente. Sì, fin troppo abbondantemente in alcuni casi, perché mascherano una forma contrattuale diversa con quello che dovrebbe essere un lavoro occasionale. A questo proposito le chiedo una cosa, professor Della Ringa, perché andiamo alla qualità dei lavori che si sono creati. Perché sull'anno sono 257.000 in più, abbiamo già detto che ci sono 45.000 nuovi occupati, però questi 45.000 nuovi occupati sono il frutto di 56.000 nuovi lavoratori indipendenti e a cui vanno levati 11.000 lavoratori dipendenti in meno. C'è un aumento soprattutto nella fascia sopra i 50 anni e un calo nella fascia tra i 35 e i 49 anni e anche i 25-34. Un commento anche su questo, cioè il dato sull'aumento degli occupati. Io dico sempre, meglio che ci sia un occupato in più che un occupato in meno, quindi anche se a tempo, se ha una partita IVA o un contratto a tempo determinato. Però stanno aumentando, sono aumentati solo i lavoratori indipendenti, non indipendenti. Considerato il fatto che era da tanto tempo che il numero degli indipendenti si riduceva, perché le grosse difficoltà delle piccole imprese, del piccolo commercio sono state fortissime, e adesso una piccola ripresa è anche quasi fisiologica. Però potrebbe essere interessante, diciamo così, mettere insieme il dato di questo aumento del lavoro autonomo e il fatto che c'è un po' di aumento dell'occupazione dei giovani. Questa è una tendenza che c'è da un po' di tempo, infatti il tasso di disoccupazione dei giovani sta diminuendo rispetto alla tendenza generale. Allora uno si chiede, sì, può darsi che siano tanti lavori e lavoretti di questi giovani che pur di trovare qualche soldo si prestano a fare qualsiasi cosa. Però si sente in giro, e queste sono notizie anche che si raccolgono in giro sui quotidiani, insomma, molti giovani si danno da fare, sarà queste start-up, sarà questi lavoretti in rete, no? Che si stanno moltiplicando. Sì, io so già l'obiezione, poi è a che prezzo e con che salario, questo sono d'accordo, però... Sì, però succede in tutto il mondo, questa è una rivoluzione tecnologica, i giovani sono più addentro, masticano di più, hanno più familiarità con questi strumenti e si danno da fare. Quando si sente in giro qualcuno si lamenta, ma molti sono anche soddisfatti, cioè buttarsi in proprio in queste... No, io mi riferivo della Ringa agli 800 euro o 1000 euro che ormai sono diventati. Questo, voglio dire, anche qui, dal punto di vista del principio, è meglio guadagnare 800 euro che stare a casa a guardare la parete, ci mancherebbe. Però va anche detto che non possiamo sorprenderci di un'economia sempre più deflattiva, cioè coi prezzi che calano invece che aumentare, quando i salari sono a questo livello, cioè i consumi della Ringa non ripartiranno mai se tutta la pressione la esercitiamo sui salari e non su altre forme di investimento, perché questo negli Stati Uniti stiamo osservando, visto che adesso entriamo nella settimana elettorale, proprio un aumento dei voti per Trump nella classe medio bianca americana, che pure è occupata ma ha salari molto bassi, cioè il post-crisi non ha ridotto, anzi ha aumentato le differenze, tutto qui. vorrei condividere le stesse idee, perché certo, allora bisognerebbe fare contratti collettivi, dare aumenti salariali, eccetera. No, ma... Però voglio dire, se la produttività in America, Stati Uniti e Inghilterra aumenta, è aumentata da tanto tempo, noi invece facciamo fatica. E infatti quindi, il dato di ieri è brutto anche per questo motivo, sulla produttività siamo fermi. Quindi come possiamo permettere? Però io, allora, guardi, visto che lei è esponente del PD, io invito voi del PD e come tutti i membri del governo, da un lato è sbagliato dire che va tutto peggio, tanto meglio, però... attenzione all'eccesso di trionfalismo, cioè lei ha detto bene, l'importante è che meno male che almeno il dato sull'occupazione sembra essersi stabilizzato. Eccesso di trionfalismo secondo me è anche quello del ministro Poletti, che dice d'avvio del governo 656.000 occupati. È ovvio che se tu porti sempre più indietro il raffronto, ma noi stiamo ragionando di anno su anno, di mese su mese, poi se uno lo porta a 2 anni e mezzo fa, ho capito che c'è stato quello scalino, ma ricordarcelo sempre non cambia il dato complessivo. Grazie anche al professor Della Ringa, andiamo sul traffico. Grazie a voi. Stufe, caldaie e termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Focus Economia. Allora, noi restiamo in tema di economia reale, non per parlare ancora di occupazione e disoccupazione. A chi mi chiede la borsa, un attimo di pazienza, meno 0,33% oggi, invariata Parigi, meno 0,40% Francoforte, una giornata obiettivamente un po' più tranquilla. Perché vorrei restare sull'economia reale, sull'altro fronte, non quello dell'occupazione e disoccupazione, ma quello degli scenari industriali. Oggi il Centro Studi di Confindustria ha presentato il rapporto sugli scenari industriali, ribadendo e facendo notare come l'Italia, pur con tutte le difficoltà e con la quota della parte della produzione industriale dimezzata rispetto al 2007, resta il settimo paese al mondo come settore manifatturiero. Questa è la buona notizia. Poi il Centro Studi di Confindustria ha evidenziato anche notizie e elementi meno buoni. Vorrei ascoltare su questo però l'intervento del ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, che ha detto insomma qui siamo da una situazione simile a quella di una guerra e da 20 anni particolarmente duri. L'Italia è una situazione che viene da un pregresso particolarmente duro, e credo che anche questo noi molto spesso quando parliamo delle cose che fa il governo è giusto, però non ricordando che veniamo da un ventennio sostanzialmente di stagnazione, in cui di tutto ci siamo occupati tranne che di industria e di economia, perché io insomma fino al passato recente francamente in Italia quello che è stato messo in atto è una cosciente idea di cercare di troncare le gambe a qualunque attività manifatturiera. Abbiamo lasciato sul campo un quarto delle truppe e la polarizzazione è avvenuta in maniera preponderante. Quali sono, io credo, le risposte? Le risposte sono su tre piani e sono, io lo metterei così, governance, investimenti e trasparenza. E gli investimenti privati su tre driver, a mio avviso, che l'Italia ha: sicuramente la manifattura, sicuramente la cultura e il turismo e probabilmente anche life science, dove ci abbiamo delle carte da giocarci. Allora, su questo, commentando appunto il settimo posto a livello mondiale come manifattura, il secondo in Europa, anche il presidente Confindustria Vincenzo Boccia, ascoltiamolo al microfono della nostra Teresa Trillò. Rimane settima e rimane seconda, però non dobbiamo accontentarci di questa situazione che dà una media interessante, ma oggi emergono due aspetti. Uno in termini proprio aziendalistici, cioè c'è un divario tra aziende che vanno molto bene e aziende che vanno non molto bene, e questo divario va ridotto. Queste aziende del gruppo cosiddetto intermedio vanno accompagnate in una logica di crescita. Questa è una questione che riguarda molto alcuni aspetti dentro le fabbriche. Mi sembra molto interessante questa chiave di lettura. Il secondo è quale politica economica dobbiamo aspettarci per costruire un paese moderno e competitivo a partire dalla manifattura e dall'industria. I dati confermano che siamo il secondo paese industriale d'Europa, siamo al settimo posto nel mondo e abbiamo potenzialità rilevanti. Il problema non è dove siamo, ma dove potremmo andare, e su questo bisogna costruire una grande stagione che parta dalle fabbriche e anche dall'esterno delle fabbriche. Allora, qualcuno mi scrive: non ho capito nelle parole del ministro Calenda il terzo driver, life science, sarebbero tutte quelle scienze che si applicano alla vita e soprattutto all'aumento, per fortuna, dell'età di vita. Pensate, per essere molto molto prosaici, al settore biomedicale, diciamo, di Mirandola e non solo. Beh, quello ha prospettive da tutti riconosciute come di altissimo sviluppo e crescita. Comunque, Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria, è in collegamento con noi. Buonasera Luca. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Luca, due cose mi hanno colpito, poi magari sono anche marginali, però voi fate notare che da un lato in questo nostro essere tornati al settimo posto, cioè il Brasile che scende all'ottavo, però complessivamente rallenta l'ascesa degli emergenti. Poi vorrei venire invece all'altra riflessione che fate sul Made in Italy. Luca. Sì, rallenta perché la velocità è meno alta, è meno sostenuta, non per questo non è ragguardevole. Parliamo di una Cina che passa dal 10% al 7,1% di incremento annuo del valore aggiunto manifatturiero, e lo stesso si può dire per altri paesi emergenti, per il loro insieme, diciamo. E contemporaneamente osserviamo una recupero di velocità invece negli avanzati. Parliamo sempre di industria manifatturiera, certo, non di economia nel suo insieme. E da questo punto di vista vediamo che la Germania, che passa da un ritmo di crescita del valore aggiunto manifatturiero di meno 0,1% nel 5 anni 2007-2012 a più 2,3% anno nel 2012-2015. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, per esempio. Un miglioramento lo possiamo osservare anche, nel Regno Unito, meno 1,5 più 0,5, la Francia meno 0,7 più 0,8, ritmi molto più bassi di quelli. Quindi che senza trionfalismi, però il messaggio che voi date è chiaro: rispetto a anni fa sono cresciute un po' di più la parte manifatturiera. Mi chiede qualcuno cosa vuol dire? Vuol dire chi produce manufatti, beni, non servizi, beni che possono essere beni intermedi, beni per un'automobile, produrre, un'automobile, un macchinario per produrre macchinari o per produrre automobili. Ecco, c'è stato un recupero dei paesi che noi eravamo considerati, non dico vecchia Europa, old economy, ma paesi abituati a essere in discesa in questi anni. A conforto, qualcuno mi chiede anche la percentuale, la Cina comunque è al 28,6% dei prodotti manifatturieri mondiali, seguono molto distanziati gli Stati Uniti col 19% e poi via via gli altri paesi. E voi sottolineate però che noi potremmo fare ancora più leva sul Made in Italy, al di là della retorica di cui ogni tanto alcuni si riempiono la bocca. Ma che cosa intendete sui fattori del Made in Italy? La cura del prodotto, la qualità dei materiali, il design, l'attenzione a tutte le fasi produttive, quello che noi chiamiamo bello e ben fatto, che di solito bello e ben fatto è riferito a prodotti per la persona e la casa, mobili, arredo, vestiti, calzature, occhiali, gioielli, ma che può essere benissimo declinata anche per i macchinari, per esempio. C'era un imprenditore che dice: i nostri macchinari non solo sono molto all'avanguardia tecnologicamente, ma sono anche belli, a differenza di altri. C'è un orgoglio, è un'emozione, una passione nel fare le cose belle. E perché viviamo in un paese che ha straordinarie ricchezze di bellezza nel paesaggio, nella qualità e varietà del cibo, nelle opere d'arte, nella capacità creativa. E questo, vivere in un paese così bello si trasmette a quello che facciamo e quindi ci viene riconosciuto. In questo senso abbiamo un brand Italia che ha una elevatissima domanda nel mondo e su cui possiamo far leva per aumentare il nostro valore aggiunto, le nostre esportazioni, anche il prezzo di quello che vendiamo nel mondo, perché uno dei difetti del paese è che facciamo delle cose bellissime, ma non siamo capaci di far riconoscere il valore di quello che facciamo. E invece voi riconoscete, per concludere, come alcuni degli ostacoli con cui deve fare i conti il nostro sistema sono la scarsa disponibilità di credito e credito e la bassa profittabilità. Proprio di credito parleremo, ma per una vicenda specifica che si chiama Popolare di Bari, ieri l'abbiamo affrontato, oggi ci hanno chiesto di poter spiegare anche la situazione contabile dopo il GR24. Intanto io ringrazio Luca Paolazzi, direttore del Centro Studi Confindustria. Andiamo su GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da... SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. I wanna be free, set free. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso la borsa e poi la pop di Bari, meno 0,33% Milano, meno 0,1% Parigi, meno 0,40% Francoforte, meno 0,80% Londra, invariata l'America sul Dow Jones. La notizia sui mercati riguarda soprattutto il rapporto di cambio sterlina con il dollaro e con l'euro, ne parleremo fra pochissimo. Bene Luxottica oggi dopo i conti, risale del 3% a 45, quasi 46 euro per azione. Azimut più 1,70% e Intesa San Paolo più 1,20%. Oggi più calme le banche, anche più miste come andamento. Poste Italiane più 1 e Mediolanum più 0,90. Allora, Exor meno 2,70, UBI Banca meno 2,60, Brembo meno 2,30%, i conti erano attesi oggi su Brembo, questa è la reazione del titolo. Mediaset meno 1,60, CNH meno 1,5 come Snam, l'1,20 lo perde la Popolare Emilia Romagna, l'1,1 il calo di A2A e di Campari. Visto che ieri siamo occupati di Stefanel, oggi segnalo il rimbalzo dopo la richiesta del concordato, che non va a far recuperare il tonfo di ieri, però recupera meno della metà, guadagna il 19% a 0,12 euro per azione. Bene anche TAS più 16%, Zucchi sul risparmio non convertibili più 16% e Société Générale più 5,88%. Il fronte opposto invece vede Renault de Medici meno 9,20%, il Sole 24 Ore meno 9%, Digital Bros meno 8,30%, Adidas meno 8%, Gefrain meno 7,80%. Allora, dicevo della Popolare di Bari, ieri ci siamo occupati della più grande banca del Mezzogiorno, perché ci sono arrivate numerose segnalazioni di azionisti che non riescono a vendere i titoli della banca. Allora, i titoli, come avveniva già in molte banche popolari, molte erano non quotate. Il problema qual è? Che dopo quello che è successo a Veneto Banca e a Popolare di Vicenza, ogni volta che si ha una tensione su questo scatta l'allarme. Allora, i titoli della Popolare di Bari sono già stati ridotti lo scorso aprile da 9,5 euro a 7,5 euro, quindi meno 20%. Sono titoli non quotati. La Popolare di Bari deve approvare l'11 dicembre, se non ricordo male, la trasformazione in SPA e quindi anche una valutazione dei titoli. Questo un po' preoccupa e spaventa in alcuni casi. I soci della Popolare di Bari sono in tutto 70.000 e siamo in collegamento con il direttore generale della Popolare di Bari, Gianluca Iacobini. Buonasera. Buonasera a lei. Dunque, partiamo, poi chiaramente affronteremo anche il tema del bilancio 2015 e a questo punto anche 2016. e 16. Però partiamo dal tema degli azionisti. Ora, tantissime banche popolari non erano quotate, e alcune non lo sono ancora, ed era una cosa abbastanza normale mettere azioni a un valore che veniva definito dalla banca stessa. Il problema, come lei sa, Jacobini, è che dopo quanto accaduto a Veneto Banca e a Popolare di Vicenza, ogni volta che parliamo del valore delle azioni attribuito dalla banca stessa che hanno in carico gli azionisti, il timore è, non è che adesso questo valore continuerà a svalutarsi proprio perché dovete dare una valutazione da SPA, che è la prima domanda che ho per lei. Allora, in realtà è che nei casi che lei ha citato il valore, l'espressione del valore del titolo, ma in realtà situazioni, ahimè, molto molto più complicate, quelle sulle quali siamo convinti con tutta l'umiltà possibile che la situazione sia ben diversa di Banca Popolare di Bari e di altre banche del sistema. In realtà oggi quello che sta succedendo su un quadro complessivo che guarda tutte le banche quotate e non quotate è particolarmente complicato. Siamo vicini al panic selling. Quello che possiamo dire è che la nostra banca è vicina ai propri soci. L'unica concreta risposta che la banca può dare è attraverso i risultati industriali di gestione, e già ci sono i primi segnali positivi dalla semestrale di quest'anno. Ma quindi, per essere ancora più concreti, se io avessi azioni della Popolare di Bari e venissi allo sportello per venderle, riuscirei a trovare un compratore? Perché poi questo è quello che temono gli azionisti, cioè, e a che prezzo secondo lei? In realtà è un tema diverso, bisogna scindere il tema industriale, quindi la solidità della banca, con la liquidabilità del titolo, che in questo momento ha due riflessi. Per le banche quotate una forte discesa dei prezzi, e questo è successo anche su banche molto titolate, e personalmente ritengo ci siano state le riduzioni di prezzo ingiusto. Mentre per quanto riguarda tutto il mercato delle ex popolari o delle popolari non oggetto di trasformazione in SPA, in questo momento c'è una domanda di vendita che è maggiore rispetto alla richiesta di acquisto. Riteniamo che questa sia una fase e che in questo momento ci sia una differenza importante tra le banche che hanno un progetto industriale e dei numeri solidi dal punto di vista industriale e patrimoniale, e quelle che invece in questo momento stanno manifestando difficoltà legate ad altro. Però, per essere ancora più concreti, se io venissi da voi, a che prezzo potreste darmi questo comprare il mio titolo? Ma mettiamo che io ce l'abbia in carico a 9,50 euro. Sono già scesi a 7,50 euro, quindi sicuramente non superiori ai 7,50 euro, immagino. In questo momento le azioni vengono tradate al 7,50 euro, che è il prezzo indicato. Che è il prezzo indicato? Con un tasso di, non so come si possa dire in linguaggio bancario, ma insomma di accoglimento di queste richieste che voi avete sotto mano? Cioè ogni quanti azionisti vogliono vendere riescono a essere soddisfatti? Ma in realtà questi dati è difficile fornirli. E quello che possiamo dire è che c'è stata un'ultima asta recentemente dove sono stati transati alcuni pezzi. Il nostro auspicio, con tutte le attività industriali che la banca ha portato a termine, non ultimi gli NPL, l'acquisizione di Tercas, l'integrazione della banca e con un conto economico in questo momento in linea con il piano industriale, che la soddisfazione dei nostri soci continua ad aumentare pro futuro, anche perché riteniamo che questa sia una fase di mercato particolarmente critica che, come dicevamo prima, prende banche quotate e non quotate. Ecco, lei citava Tercas, non è un mistero perché hanno scritto tutti che uno degli elementi che hanno indebolito il vostro bilancio nel 2015 si è chiuso con una perdita di 475 milioni, poi ridotti a 300 grazie a alcune parità fiscali, sia proprio stata l'ex cassa di risparmio di Teramo, un intervento che vi sollecitò la Banca d'Italia, anche se la stessa Banca d'Italia aveva notato importanti criticità nella gestione della Tercas e anche nell'erogazione di finanziamento di alcuni imprenditori. Detto ciò, la Tercas quanto ha pesato e che prospettive avete a questo punto sugli NPL per il bilancio 2016? In realtà bisogna, diciamo, fare qualche precisazione. La perdita dell'anno passato è legata a una scelta industriale di affrontare, diciamo, il mercato in maniera diverso rispetto al passato, in linea comunque con il piano industriale di Banca Popolare di Bari. Questo ovviamente ci ha permesso di affrontare con maggior serenità il mercato e con degli indici di patrimonializzazione molto forti e anche di copertura dei crediti deteriorati. Attualmente la banca è circa il 49% e fra le prime 5 banche italiane per copertura. Questa è una scelta che era prodromica per il piano industriale, insieme alla spesatura di determinate spese legate a fuoriuscita di personale e quindi alla messa a regime del piano industriale. Tercas in questo momento ci permette di svilupparci in un territorio importante come quello dell'Abruzzo, avendo svolto un'attività di pulizia del conto economico di Tercas che tutte le banche dovranno fare per il proprio conto economico. Abbiamo deciso di farlo in anticipo e abbiamo deciso di farlo con un'operazione assolutamente innovativa, che poi è un po' la risposta all'incapacità italiana di affrontare in maniera seria il problema degli NPL. Cioè, lo ricordo a tutti, gli NPL sono i non performing loans, i crediti non più esigibili, prestiti che avete fatto che non vi torneranno più indietro. Assolutamente. E il tutto il dibattito in questo momento per tutto il mondo bancario è: a che prezzo li metto in bilancio? I fondi avvoltoio vorrebbero dire non più del 20%, cioè io te li compro ma ti compro il 20% di quello che è il tuo credito e cerco di guadagnarci sulla differenza. È chiaro che una cifra del genere vorrebbe dire abbattere tutti i valori di bilancio delle banche che li hanno, perché tu magari li hai portati da 100 euro che ti sono dovuti, li hai fatti scendere a 80, magari a 70, ma non a 20 euro. Voi a quanto li stimate gli NPL in pancia? In realtà il discorso è un po' più complesso. L'anno scorso noi abbiamo strutturato un'operazione totalmente innovativa che per la prima volta permette di vendere in maniera trasparente gli NPL, facendo sì che il prezzo venga fatto dal venditore e non dall'acquirente, quindi limitando in maniera importante i guadagni da parte degli acquirenti, che genericamente sono fondi specifici. Questa operazione, che è stata fatta diciamo in anteprima, è stata individuata dal nostro team insieme a JP Morgan, e il fatto quindi di aver affrontato per primi, quindi con una tecnologia totalmente nuova, ci ha permesso di raggiungere un prezzo importantissimo per il mercato, che è di circa 30, mai si erano venduti NPL a questa cifra, e quindi la banca ha avuto un risparmio di circa 60 milioni su questa operazione. Ovviamente questa sarà prodromica, perché sono operazioni che dovranno e stanno già facendo tutte le altre banche del sistema, italiane e non. Ecco, ma da questo punto di vista il bilancio 2016, perché insomma le rassicurazioni, vedo anche i messaggi su WhatsApp, SMS, sono in primo luogo non tanto per i correntisti, ma per gli azionisti. Allora, voi avete chiuso, ripeto, l'anno scorso, pur con l'operazione che lei ricordava, col peggior bilancio della vostra storia. Il 2016? In realtà, ripeto, il bilancio dell'anno scorso è stato frutto della volontà di avere determinati presidi, soprattutto per quanto riguarda il credito. Quest'anno ovviamente stiamo beneficiando di una serie di sacrifici fatti l'anno passato, e riteniamo che quest'anno, così come la semestrale, si possa chiudere positivamente in linea con il piano industriale, avendo poi svolto una serie di progetti e chiusi definitivamente, come l'acquisizione di Tercas, l'integrazione di Tercas, la cessione di NPL, un piano esuberi che asciuga di molto le risorse della banca. Senta Jacobini, però adesso mi rendo conto che poi alcuni elementi sono anche tecnici, però a chi ci ascolta, in primo luogo gli azionisti ma anche i correntisti, lei che cosa si sente di dire? Non dico per tranquillizzare, perché insomma chiedere all'oste se il vino è buono è sempre difficile, ma per far capire anche che, pur con tutte le preoccupazioni che le vicende degli ultimi anni hanno ovviamente generato, voi avete un piano industriale, se ho ben capito le sue parole, che va in un'altra direzione. Assolutamente, la banca è serena nello svolgere le attività che si è prefissa. Tutte le stazioni del piano industriale si stanno realizzando, si sono realizzate in passato, l'integrazione di Tercas, complicatissima dal punto di vista gestionale, è realizzata, e quindi la banca sta affrontando il termine del 2016 e l'inizio del 2017 con un modello nuovo di banca territoriale, che è quello che ha caratterizzato la forza della banca. Sicuramente il contesto esterno è di un momento particolarmente duro, siamo convinti che i razionali, il patrimonio della banca e la capacità gestionale della banca stessa possa permettere alla banca di continuare a crescere come ha fatto nel passato. L'andamento, per chiudere, dei nuovi NPL, perché abbiamo visto qualche miglioramento nel sistema complessivo, però il sistema complessivo, l'andamento dei nuovi crediti? L'andamento dei nuovi crediti sta diminuendo, questo a livello di sistema è il peggioramento che c'è stato. Evidentemente aver venduto per primi gli NPL ci ha dato un enorme vantaggio che adesso oggi dovranno cercare di sfruttare le altre banche, e ovviamente lo portiamo al nostro patrimonio, aver fatto questa cosa per primi in Italia e in Europa. Bene, grazie al direttore generale della Popolare di Bari, Gianluca Jacobini. Arrivederci, grazie. Adesso andiamo sul traffico. Allora, gli ascoltatori... Dunque, le domande le abbiamo fatte, uno dà le risposte che vuole, non è che posso sparare, obbligare l'interlocutore a dare le risposte che volete voi o che uno si può immaginare. Queste sono le risposte di chi ha la direzione generale della Popolare di Bari, va bene? Ed è giusto anche sentire loro, visto che ieri, lo dico a chi mi sta di nuovo scrivendo, si è perso la puntata di ieri di nuovo sulla pubblicità, ribadisco che non so, non voglio sapere, non conosco e non mi interessa conoscere la pubblicità che va in onda su Radio 24, spero solo che sia sempre di più e sempre più venduta, sempre più cara. Era giusto sentire anche la controparte, no? Non si può, se no diventiamo solo una parte, giustamente ci dite no, fatevi evidenziare solo le parti critiche o problematiche. Queste le risposte che ha dato il direttore generale della Popolare di Bari. Adesso c'è il traffico e poi parliamo dell'ultimo tema, e quindi la Brexit, o meglio in quale forma di vicolo cieco, o addirittura alcuni parlano di sostanzialmente ingarbugliamento istituzionale, si sta proiettando la Gran Bretagna dopo la decisione della Corte di Giustizia di Londra di oggi. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta Focus Economia. Allora, qualcuno mi chiede perché le azioni della Popolare di Bari si tradano, vabbè il termine non è granché, anziché essere scambiate, perché quando compri le azioni di un titolo non quotato, cosa che è avvenuta per molte banche popolari, il prezzo non lo fa il mercato, il listino di borsa, per cui alla fine un compratore lo trovi sempre, lo fa la banca, deve trovare un compratore la banca stessa. Ecco perché, alla luce di quanto è avvenuto con la Vicenza e con Vento, che sono per ora casi molto diversi, era importante capire come stesse andando questa cosa. Dopodiché, ripeto, non posso andare io allo sportello di ogni filiale della Popolare di Bari a vedere a quanto e in quanto tempo ci mettono a trovarmi un compratore a 7,50 euro. Allora, l'Alta Corte di Londra ha accolto il ricorso di alcuni attivisti pro Unione Europea, quindi contro la Brexit, che chiedono un voto al Parlamento britannico, quello di Westminster, per avviare l'iter della Brexit, dando così torto al governo di Theresa May, che rivendica il diritto di andare avanti senza bisogno di voto parlamentare, di invocare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona e aprire tutte le varie trattative che verranno aperte per uscire dall'Unione Europea. La sterlina si è un po' rafforzata, un punto e mezzo, un punto e tre su dollaro e euro, ma il punto vero è che adesso il governo britannico ha già fatto capire che farà ricorso all'Alta Corte di Giustizia. Festeggia Gina Miller, donna d'affari attivista, riusciamo a sentirla Miller al volo, che è contentissima, al settimo cielo per la vittoria. Il risultato di oggi riguarda tutti noi, non riguarda me o la mia squadra, riguarda tutto il Regno Unito e il futuro di noi tutti. Non c'entra come ognuno di noi ha votato, ognuno di noi ha votato per quanto riteneva il meglio e per dare il miglior futuro a questo paese. Questo caso concerne procedimenti tecnici, non l'aspetto politico. Spero che venga presa la decisione migliore e che non venga presentato appello. Spero che invece si spinga per avere un dibattito giusto nel nostro Parlamento sovrano, madre di tutti i parlamenti e per cui siamo tanto ammirati nel mondo. A mother of all parliaments that we are so admired for around the world. Allora, che scenario si apre? L'ingorgo istituzionale lo chiedo al corrispondente sulle 24 ore da Londra, Leonardo. Scusatemi, Nicola degli Innocenti, che è in collegamento con noi. Ho fatto un errore io, chiedo venia, ogni tanto mi capita. Nicola degli Innocenti, che è in collegamento con noi da Londra. Buonasera, Nicola. Nicola è andata giù, quindi non solo non è Leonardo Maisano, ma è anche la degli Innocenti. Vi do alcuni aggiornamenti su questo. Intanto, il governo ha risposto in maniera molto piccata: occorre rispettare il risultato del referendum. I nostri piani non cambiano, ha detto Theresa May. Ha fatto capire appunto che andrà a ricorrere all'alta corte britannica. Faccio anche notare che i deputati, quindi della Camera dei Comuni britannica, hanno votato nella stragrande maggioranza per restare in Unione Europea. Questo è un dato interessante, se poi appunto si andrà a un voto parlamentare. Nicola adesso in collegamento con noi. Nicola, che scenari si aprono? Ma direi ci sono tre scenari. Uno, se il governo vincerà il ricorso alla Corte Suprema, che verrà annunciato, la decisione verrà annunciata l'8 dicembre, quindi c'è circa un mese di incertezza. Se il governo dovesse vincere, ovviamente procede sulla strada tracciata dalla Premier con Brexit, che con lo scattare dell'articolo 50 e dei negoziati con Bruxelles nel marzo 2017. La seconda ipotesi, il secondo scenario, quello più probabile secondo gli aspetti legali, è che la Corte Suprema confermi il giudizio dell'alta corte, si tratta di tre dei più alti giudici, più rispettati giudici del regno, che hanno dato il verdetto oggi. Quindi se invece appunto il governo perderà anche il ricorso, anche l'appello, si andrà a un voto in Parlamento, quindi il Parlamento sovrano dovrà decidere quando e come, i tempi e i modi di Brexit, non su Brexit, perché ovviamente il voto... E così chiariamo anche a chi scrive che non è in gioco la Brexit, il voto popolare del referendum. Dunque, la cosa è complicata dal fatto che la grande maggioranza dei deputati è a favore di restare l'Unione Europea. Quindi in teoria potrebbero votare contro Brexit. Di fatto però è molto difficile, molto improbabile che i deputati eletti dal popolo vadano contro la volontà popolare. Questo creerebbe veramente una rivoluzione per le strade, come ha minacciato oggi Farage di UKIP. Ma infatti su questo sono d'accordo, ecco perché ritengo che chi dice beh, ecco, in questo modo fregheranno il voto referendario, no. Perché allora però il governo britannico si oppone in maniera così forte, tanto da far ricorso a un voto parlamentare su tempi e modalità? La May voleva decidere i tempi e i modi di Brexit in modo autonomo e in modo anche segreto, cioè a più volte i deputati sia del suo governo che dell'opposizione hanno chiesto qual è la strategia negoziale del governo, quali sono gli obiettivi di Brexit, perché è tutto molto incerto, e si è sempre rifiutata di farlo, l'ha paragonato a mostrare le carte in mano all'inizio di una partita di poker, e quindi ha detto, quindi voleva continuare su una strada con i suoi ministri, con il suo governo, senza dare informazioni più del necessario al Parlamento o al Paese. E questo sarà impossibile, ovviamente. Adesso se verrà confermata la sovranità del Parlamento, il Parlamento deciderà i tempi e i modi. Non, come diceva, è improbabile che blocchi Brexit, ma sicuramente rallenterà Brexit. Ed ecco perché la sterlina si rafforza. Scusami, Nicole, esatto. Per concludere, tu stai escludendo la possibilità che l'Alta Corte dia... la Corte Suprema dia torto all'Alta Corte di Londra? No, non posso ovviamente escluderlo, non lo so, secondo gli esperti legali è improbabile, ma ovviamente No, questo mi interessava, non la tua chiaramente opinione. Staremo a vedere, perché tutto avverrà tra il 7, la Corte Suprema dibatterà il caso tra il 7 e l'8 dicembre, quindi un bel mese ci aspetta, tra elezioni americane, referendum, Brexit, 7-8 dicembre, ok. Grazie intanto a Nicole degli Innocenti in collegamento con noi da Londra. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni, come sempre, l'augurio di una buona serata. Radio 24. Libera la voglia di fare.